La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici all'ascolto. La rosa purpurea, allora, settimanale di cinema qui su Radio 24. Settimana con 8 nuove uscite. Ormai non ce la scampiamo più. Ogni weekend arrivano 8-9 nuovi film. Impossibile per lo spettatore che andasse al cinema una volta al giorno stargli dietro. Ma insomma, noi come sempre qui facciamo selezione vera. E allora le nostre proposte sono quelle che insomma nel nostro piccolo cerchiamo di darvi per potervi appunto giostrare all'interno della sala o della multisala cinematografica. Da Parigi, Con amore e tanto sangue, torna John Travolta nei panni di un agente speciale spaccatutto nell'action movie From Paris with Love, prodotto da Luc Besson. La mitologia diventa film in 3D, sbarca in Italia Scontro tra titani, l'eterna lotta tra il bene e il male incarnati dagli dei dell'Olimpo, da Zeus a Perseo, passando per le grinfie di Medusa e Gorgona. E ancora, un gruppo rock clandestino in viaggio e in fuga nell'Iran di oggi, sono i Gatti Persiani, una commedia per capire che a Teheran e dintorni c'è chi dice no. E Jennifer Lopez, protagonista di The Backup Plan, commedia romantica su una maternità difficile risolta attraverso la provetta, in uscita nei cinema americani. Cominciamo allora con From Paris with Love, da Parigi con amore. Dirige Pierre Morel, che già aveva ambientato a Parigi un thriller con un americano protagonista, Io vi troverò, con Liam Neeson. E siccome la cosa sembra essergli piaciuta, stavolta fa il bis con John Travolta e Jonathan Rhys-Meyers. Quest'ultimo, già visto recentemente in Match Point e Mission Impossible 3, è qui nei panni di James Reese, un giovane agente dell'intelligence americana che lavora a stretto contatto con l'ambasciatore. Una cimice c'è piazzata qua, un furtarello di documenti là, la sua vita scorre senza grandi emozioni se non quelle che gli regala la bellissima fidanzata Carolina, l'ormai naturalizzata italiana Kasia Smutniak, vista in Caos Calmo. Un giorno però a Parigi arriva un altro agente molto speciale e molto diverso della CIA, è Charlie Wax, e sin dall'arrivo all'aeroporto si capisce che i suoi metodi non sono molto ortodossi, soprattutto quando rischia di farsi arrestare per portare con sé una borsa di lattine di bibita energetica. È lì che James e Charlie fanno, per così dire, amicizia. Quelle non entrano in Francia. Ok? Mi dici come faccio a trovare l'energia per godermi gli infiniti piaceri della vostra bella città? Se vuole posso offrirle un caffè espresso, signore. È molto importante che lei passi. Non senza le mie lattine. Don, monsieur, le posso parlare? Quella roba è un problema. Così sembra. Conosci questo ristorante? Sì. Ma ci sono posti migliori. So che fanno le uova alla Fuyung da sballo. Da un bel centone allo sbirro e portami lì. Qui non facciamo le cose così. Beh, io invece le faccio così. Perché non chiami l'ambasciata e mi fai mandare un altro autista a cui va bene il mio modo di fare le cose? Io non sono il suo autista. Sono il suo partner. Appena uscito dall'aeroporto con un bel adesivo valigia diplomatica sul borsone, Charlie mette subito le cose in chiaro. È a Parigi sulle tracce di un traffico di cocaina gestito da un'organizzazione che finanzia il terrorismo internazionale. Gente tosta e senza scrupoli. E tosti e senza scrupoli dovranno essere anche loro, il duro Charlie e il giovane James. Prima tappa, un ristorante cinese. Come dite uovo in cinese? Mi dispiace, sono di quarta generazione, sono nato qui, non parlo cinese. Ehi, ha detto soltanto che non parla cinese. Forse questa lingua la parla. Che cazzo fai? È solo un cameriere. Se è un cameriere ci può aiutare a ordinare il dessert. Lo voglio bianco, pakistano e polveroso. Niente dessert, biscotti della fortuna. Oh, dici che c'è fuori dal menù allora? Una crème brûlée della pasticceria di fondo. No. Sono più in vena di una cosa che si sniffa, che si compra al chilo. E così, man mano che l'obiettivo si avvicina, il sodalizio fra i due agenti si fa più stretto. Non c'era questa merda di posto nella guida di Parigi. Perché la merda dovrebbe essere diversa da quella di casa? Immaginavo che a Parigi, che ne so, la merda fosse più carina. Case popolari, New York East. Cazzo, sul serio? Non uscivi troppo spesso? No, non molto. Infatti sono stato l'unico del mio palazzo a restare vivo. Magari avessero rinchiuso me. Ma che ci facevi tutto il giorno chiuso nella tua cameretta? Leggevi? Guardavo sempre Star Trek. Star Trek? E sognavo di andarmene. Kirk o Spock? Ma nel corso dell'irruzione nell'appartamento dei trafficanti, James fa una scoperta inquietante. Una parete è tappezzata di sue fotografie. Qualcuno lo sta spiando ed è qualcuno di molto, molto vicino. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Bisogna intendersi su questo film, non c'è niente di nuovo, un movimento, una situazione, uno snodo della trama, tutto già visto, tutto nel cliché del thriller d'azione americano in salsa francese. Nulla a che vedere con la classe del Frantic di Roman Polanski e nemmeno con la solidità del precedente Io vi troverò dello stesso Pierre Morel. Qui la cifra, scelta dal produttore Luc Besson prima ancora che dal regista, è quella dell'esagerazione, dello spara-spara, del videogame che diventa film. E allora se l'accettiamo così, le quasi due ore del film passano veloci, senza lasciare segni, ma in un clima di divertimento, grazie soprattutto a un John Travolta sovrappeso e sopra le righe. Sentiamolo. Il mio passato da atleta e ballerino mi ha permesso di coreografare, diciamo, i movimenti. Non volevo certo deluderli ed ero ben contento che qualcuno pensasse davvero che alla mia età avrei potuto farlo. E beh, l'ho fatto. Credo di aver fatto di persona il 95% delle azioni acrobatiche. Stiamo a 5 minuti. Figuratevi, alla mia età non c'è più niente che mi preoccupa. Col mondo che vi lasciamo dovreste preoccuparvi voi. Secondo lei era diverso ai suoi tempi? Faceva schifo lo stesso. Ma eravamo molto più educati. Entriamo in un clima mitologico perché arriva anche in Italia Scontro tra Titani, che è il remake di un film che si chiamava Scontro di Titani, ma insomma siamo sempre lì, grandi ambientazioni mitologiche, dicevamo, tra Perseo, Zeus, la Gorgona, Medusa, insomma i grandi personaggi della mitologia, ovviamente rivisitati in un clima assolutamente hollywoodiano e anche ovviamente in 3D, come si conviene a questo periodo. Ha visto per noi il film Chiara Pizzimenti. Osservato dagli inferi. È ora che i mortali paghino. La voce possente e cavernosa è quella di Ade, dio degli inferi, che istiga con l'inganno il fratello Zeus a liberare il Kraken, un mostro marino tentacolare, per distruggere la città di Argo, i cui abitanti si ribellano agli dei. No! Io li ho creati e loro ripagano il mio amore sfidandomi. Non ci sarà alcuna tregua. Questa è la fine. Questo è solo l'inizio. È solo l'inizio, dice Perseo, figlio di Zeus e di una mortale. Rifiuta il suo lato divino, combatte per salvare gli uomini e per evitare che Andromeda, figlia del re di Argo, venga sacrificata. Con un manipolo di soldati e una donna guerriera, va alla ricerca di Medusa, il cui sguardo uccide il mostro. Lungo il cammino incontrerà scorpioni giganti, stranieri che sembrano Tuareg e temibili inviati di Ade. Il nuovo millennio al cinema punta sul mito e sulla storia dei greci. Troy, 300, il recente Percy Jackson e ora Scontro tra Titani, remake di Scontro di Titani del 1981. Come le opere citate, lo diciamo subito, questo non è un film per puristi della mitologia. Con rimandi all'originale, sta più fra il fumetto e il videogame, fra Transformers e l'incredibile Hulk, diretto 2 anni fa dallo stesso regista Louise Leterrier. A vestire i panni di Perseo è il protagonista di Avatar, Sam Worthington. Ade è un volante Ralph Fiennes, con parrucca. L'Olimpo sembra la Minas Tirith del Signore degli Anelli. In armatura scintillante lo governa Zeus, Liam Neeson, tuonante anche nella voce. Liberate il Kraken! Il tutto amplificato dalla trasformazione in 3D a posteriori, dal ritmo serrato dell'azione, con un mostro preso dalle saghe nordiche e una colonna sonora martellante. Pollice verso da parte dei critici, ma il pubblico negli Stati Uniti ha portato il film in testa al box office. Questa l'opinione di chi ha già visto la pellicola in Italia. Rispetto a quello dell'82 siamo sotto, hanno preso delle idee e molte cose l'hanno un po' strascinate forzandole. Il 3D ti sbarbaglia la vista, poi effettivamente sono tanti effetti speciali, però non di più. Sì, è un bel film devo dire, perché è molto particolare la storia e è originale comunque come è stato creato. A me più che altro è piaciuto solo perché mi piacciono questi effetti speciali e tutti gli scorpioni e tutto questo, poi... La storia, ok, che non è molto reale, però è forte. Mi ha fatto venire voglia di ristudiarmi un po' la mitologia greca. A parte gli effetti speciali che sono stati veramente grandiosi, la mitologia di Perseo secondo me è meravigliosa. Pegaso sembra reale, vale la pena andarlo a vedere. Effetti speciali molto notevoli. Vabbè, la storia magari era un po' scontata probabilmente, però comunque bello, mi è piaciuto. Grazie, grazie alla nostra Chiara Pizzimenti per aver raccolto uno spettatore che dice che il 3D ti sbarbaglia la vista. Una delle più belle definizioni del 3D che ho sentito negli ultimi tempi. Allora, siamo arrivati alla prima finestra sul DVD Game, il primo momento per giocare insieme e scoprire qual è il film misterioso di questa settimana, nonché provare a vincere il DVD di questo film. Ascoltiamo insieme. Jimmy ci porta a vedere una pellicola. Poi vado al negozio pollo fritto per cena. Dove vai? Vado in centro. Devo ritirare la licenza da cameriera. Ah, aspetta, ti accompagno. Fa troppo caldo qui. E allora, avete capito di che film si tratta? Avrete delle altre possibilità più tardi, ma se lo avete già indovinato, La Rosa Purpurea, @radio24.it, il titolo del film e il vostro indirizzo di posta privata per ricevere, chissà mai, il DVD di questo film. La musichetta che sentite è quella di Fantastic Mr. Fox, che alla fine dei conti è un po' il vero consiglio di questa settimana della Rosa Purpurea. Torna Wes Anderson, il regista che ci ha regalato film improbabili ed epocali, come i Tenenbaum e Il treno per Darjeeling. Torna alla sua maniera, con fantasia e con animazione. Sì, perché il suo nuovo film, Fantastic Mr. Fox, presentato in anteprima al Torino Film Festival nello scorso novembre, è un film a pupazzi animati, come si diceva una volta. Splendidi pupazzi di peluche, in scenari di cartapesta e materiali alternativi che sembrano uscite da un sogno di Michel Gondry. La paternità letteraria è importante, niente meno che Roald Dahl, l'uomo della fabbrica di cioccolato, e fantasia non ne manca certo nemmeno qui. Mr. Fox è un bel volpino, ha un passato da ladro di galline, ma si è dato una regolata e ha messo su famiglia. Ma siccome anche la volpe perde il pelo, ma non il vizio, le esigenze di fuga, diciamo così, dalla normalità tornano a farsi sentire. E così ha inizio. Benvenuti nel fantastico mondo di Mr. Fox. Balliamo. La sua vita è fantastica. Sua moglie è fantastica. Se per caso si tratta di quello che penso, è meglio che non lo sia. I suoi vicini, un po' meno fantastici. Parliamo di Buggies, Bones e Vin, tre dei fattori più crudeli di questa vallata. Che cos'è? Ci stanno stonando! Ma i tre stanno per scoprire che si tratta di una volpe. Ho avuto un'idea. Insuperabile in astuzia. Mole, che sai fare? Riesco a vedere al buio. Ci può essere utile. Rabbit, sono veloce. Badger, esperto in demolizioni. Cosa? Da quando? E allora tutto cambia quando i contadini in superficie cominciano a perseguire piani di scasso e stanamento delle volpi. Così, per proteggere e proteggersi, Mr. Fox rimette in piedi la vecchia banda e dimostra che c'è un motivo se la volpe è l'emblema della furbizia. È la volpe più ambiziosa in cui ci siamo mai imbattuti. La carta al titanio. Perché fai sempre il fischio e quel verso con la bocca? È il mio marchio di fabbrica. Noi siamo diversi, lo siamo tutti, e lui in particolare. Ma in questo c'è qualcosa di fantastico, non ti pare? Esplosioni, fiamme, incendiare cose. Io riesco a passarci, vuoi sapere perché? Perché? Perché sono piccolo. Tu sei veramente fantastico. Per godersi appieno lo splendore raffinato di questo film bisognerebbe vederlo in lingua originale. Ovviamente non si può sempre fare, magari in qualche cinema riuscite anche, ma qui c'è davvero un motivo, perché la voce cool della volpe protagonista nella versione originale è quella di George Clooney, quella charmante della signora Fox e di Meryl Streep, e via così di star in star. Avremmo capito meglio quanto Wes Anderson con queste volpi di pezza volesse parlarci dell'americano middle class di oggi. Uno che prova a fare il bravo ma non ci riesce, perché la sua natura è così e perché fare il bravo in fondo è così noioso. Tutto questo in un film senza padri putativi, non un genere a cui appoggiarsi, non un riferimento cinematografico del passato, gira a meraviglia, ma Mr. Fox è un film che ha un suo tono, una sua cifra, fra il Dandy e i Tenenbaum, passando per una colonna sonora di gran classe e tematiche universali come il rapporto padre-figlio e l'eterna questione dell'esempio da dare alla prole. Meglio quando siamo onesti e probi o quando usciamo dalle righe ma sfoderiamo l'orgoglio? Chi lo sa, essere giusti è giusto, ma a volte è abbastanza noioso. Ma sentiamo il regista Wes Anderson spiegare perché ha scelto questo libro per il suo nuovo film e perché ha girato Mr. Fox con pupazzi animati e con la tecnica dello stop motion, un fotogramma alla volta. Wes Anderson. You know, I've always loved stop motion. Mi è sempre piaciuta la tecnica dello stop motion. Penso che trasmetta una specie di sensazione magica che altre tecniche di animazione non riescono a trasmettere. E questa storia era perfetta per questa tecnica usata per questo film d'animazione. Mi interessava proprio utilizzare lo stop motion anziché il 3D. E allora, questo era The Fantastic Mr. Fox nei cinema italiani, film, come si suol dire, per tutta la famiglia, nel senso che accontenta molto anche gli adulti. È un film che si presta a diverse possibilità di lettura e interpretazione. Diamo un'occhiata alla classifica dello scorso fine settimana, anche per capire quale dei film che vi stiamo presentando, delle novità al cinema, potrebbe insidiare le prime posizioni della graduatoria, che sono occupate, questo ci fa molto piacere, da un film d'autore e di che autore, ovvero L'uomo nell'ombra, The Ghostwriter di Roman Polanski, che nello scorso fine settimana ha fatto meglio di tutti, 1.023.000 euro di incasso. È una cifra però non inscalzabile, diciamo così, dalle retrovie. Però scorso weekend nessuno ha fatto meglio di lui. Secondo posto per Green Zone di Paul Greengrass, un poco più anche in questo caso di 1.000.000 di euro. E poi si scende sotto il milione al terzo posto con La vita è una cosa meravigliosa di Carlo Vanzina, un totale di 3.600.000 per la Cinecolomba di quest'anno. Quarto posto per Dragon Trainer, che invece continua ad avere un ottimo passaparola, non ha incassato tantissimo come invece è successo in America, ma è una quarta posizione onorevole quella per questo film in 3D che ha avuto ottime critiche. Al quinto posto Il cacciatore di Ex, era un'altra novità dello scorso weekend, così come Basilicata Coast to Coast. Abbiamo avuto la scorsa settimana ospite Rocco Papaleo, che è regista nonché protagonista di questo film, con un cast italiano di una certa importanza, tra Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Gassman, Max Gazzè, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti per questo road movie musicale attraverso la Basilicata, che ha una media per sala molto alta, ha convinto molto, è al sesto posto in classifica. Pensate, c'è gente che ci ha scritto ringraziandoci per averlo consigliato la scorsa settimana, perché andandolo a vedere si sono emozionati. Questo è davvero interessante, importante per una trasmissione, insomma, quella di vedere che c'è poi un feedback da parte degli spettatori. Permane nella top 10 ancora Happy Family di Salvatore, ormai al settimo posto. Poi Alice in Wonderland, che sfiora i 30 milioni di euro di incasso globale. Solo Avatar ha fatto meglio, ma insomma Avatar ha fatto davvero meglio di tutti in questa stagione cinematografica. Al nono posto Colpo di fulmine, Il mago della truffa, con Jim Carrey, il coraggioso film di Glenn Ficarra e John Requa, che però non ha proprio preso in pieno il gusto del pubblico italiano. E al decimo troviamo invece Mine vaganti di Ferzan Özpetek, che invece gli italiani li ha trovati davvero tutti, perché dopo tante settimane di programmazione ha incassato già quasi 8 milioni di euro. Insomma, è uno degli incassi più importanti di questo tipo di cinema italiano. Se si può perdonare e dimenticare, o perdonare ma non dimenticare, quando è che si dimentica ma non si perdona? È possibile che qualcuno ti faccia qualcosa di realmente terribile. Qualcosa che ti faccia così male, che sia così doloroso. Allora è meglio dimenticare e vivere senza tutto quel dolore, invece che perdonare e ricordare. Insomma, come avete capito, come abbiamo detto prima, in Perdona e dimentica di Todd Solondz c'è davvero poco da ridere. Ancora un viaggio di questo regista americano nella solitudine, nella sofferenza, nel rimorso di un'America di provincia che dietro le facciate pastello delle sue case cela un volto malato e non guarito, dove personaggi senza meta si aggrappano a un barlume di umanità per sopravvivere. Le spiace se mi siedo? Prego. Mi perdoni, mi dica che è etero. Lo sono. Grazie a Dio. E allora che ci fa qui tutto solo? Lavoro. È sola? Sposata. Sola, non cambia. Io so capire le persone. E cosa ha capito di me? Beh, vedo un uomo. È solo. È etero. Tanto mi basta. Per la cronaca, quella che avete sentito è una straordinaria Charlotte Rampling nel cast di Perdona e dimentica. Del resto, di questo film, del suo spirito, dice tutto il bellissimo titolo originale, Life During Wartime, la vita in tempo di guerra. E questa guerra non è quella che si fa con le armi, ben inteso, ma quella che combattiamo quotidianamente, sospesi fra la realtà e le nostre ambizioni, chi siamo e chi vorremmo essere. Mammina... Sì, amore, sei pronta per andare a scuola di karaoke? È finito il mio Xanax, ne hai ancora una per me? Ma certo, amore, cerca nel mio armadietto dei medicinali. Ok. Non lo trovo! Allora prendi mezza pillola di Prozac. Dovrebbe trovarsi in basso a destra, vicino all'Aulin. Ok. Forse è meglio che porti tutto il tubetto. I try to forgive, I try to forget, try not to relive. Per capire appieno il nuovo film di Solons bisogna fare un salto indietro di 12 anni, nel 98, quando con il suo secondo film, Happiness, Solons vinceva il premio della critica a Cannes. Da quel bellissimo film prende le mosse Perdona e dimentica, quasi un sequel, in cui Solons torna a narrare, attraverso gli occhi di tre sorelle, ognuna con la sua pesante tragedia personale alle spalle, tra pedofilia, depressione e solitudine, un'America che esiste e di cui nessuno vuol parlare. Il cinema di Solons è sempre più asciutto, privo di fronzoli, di musiche di sottofondo, di respiro nelle inquadrature. Ci sono solo i personaggi, il resto del mondo non c'è o almeno non conta. Una rarefazione che sfiora l'astrattismo e che funge da lievito alle situazioni costruite dal copione, così tragiche da toccare momenti di disperata comicità. Todd Solons non è un regista carino, il suo cinema spacca l'anima dello spettatore, in alcuni momenti lo infastidisce, ma difficilmente lo si dimentica. Certo. Perdona e dimentica. È come la libertà e la democrazia. Alla fine la Cina ci dominerà e non importerà a nessuno. Non mi importa della libertà e della democrazia. Voglio solo mio padre. Perdona e dimentica nei cinema italiani. Noi abbiamo invece qui di fronte la seconda traccia del film misterioso di questa settimana. Ascoltiamola insieme. Si fa stasera. Anna Sage uscirà con lui e indosserà una camicetta bianca su una gonna arancione. Così sapremo che è lui. Potrebbe aver cambiato aspetto? Non sappiamo ancora se andranno al Marlboro o al Biograph. Due cinema? Esatto. E allora questo avete sentito un momento del film di cui ci stiamo occupando oggi nel nostro DVD Game. Si parla di qualcuno che deve andare al cinema, è un film poderoso di un grande autore e anche abbastanza recente. Per il momento basta così, La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, se no più tardi abbiamo un'altra possibilità per giocare insieme. A questo punto noi andiamo a parlare della vetrina americana, delle novità in America con Trailer USA, perché la nostra Micaela Belisario come sempre ci porta a spasso per il cinema d'oltreoceano per vedere che aria tira, per vedere quali novità si stanno affacciando al grande schermo. Oggi vi parliamo di un tema di grande attualità, maternità e inseminazione artificiale, rigirate però in chiave di commedia sentimentale. Il film che vi proponiamo è The Backup Plan, ovvero il piano di riserva, che dovrebbe uscire nelle sale italiane con il titolo di Piacere sono incinta, protagonista Jennifer Lopez. Cosa succede se una donna singola americana decise di affidarsi alla fecondazione in vitro, resta incinta e poi incontra finalmente l'amore della sua vita? Lo chiediamo alla nostra Micaela Belisario. Sì, ciao Franco. Beh, allora, cosa succede? Succede che il principe azzurro potrebbe decidere, per esempio, di fare il papà surrogato. Almeno è quanto succede appunto in The Backup Plan, dove dopo anni di ricerca del principe azzurro, Zoe, interpretata, come dicevi prima, da Jennifer Lopez, decide di diventare madre attraverso l'inseminazione artificiale. Ovviamente, siccome non ha un partner, ha bisogno di un donatore maschile e quindi su chi ricade la scelta? Cade sul suo migliore amico. In questo passo del trailer vi facciamo sentire la scena in cui loro si trovano al ristorante e lei gli chiede se vuole diventare un papà surrogato. You're one of my best friends. Don't you want to help me? I mean, we don't have to have sex, all right? Just will you be my baby daddy? You know, I just always thought I'd be married with kids by now, but I still haven't found the one. The elusive one. Good luck. Ecco, siccome la vita ti mette alla prova ogni volta che prendi una decisione, Zoe scopre di essere incinta proprio nel giorno del primo appuntamento con un uomo che le piace tantissimo, Stan. Lui le bussa alla porta, lei in quel momento sta facendo il test di gravidanza, è positivo, e per il momento lei decide di non rivelargli niente, però tra i due è subito grande amore, colpo di fulmine. Una sera a letto lui si dichiara follemente innamorato di lei, a quel punto, tra una nausea e l'altra, lei rivela finalmente di essere incinta. Cosa deciderà di fare il grande amore della sua vita davanti a questa clamorosa rivelazione? Ovviamente non vi sveliamo, scusate, il finale, ma vi garantiamo l'happy end. Il tutto è proposto in una cornice di comicità e gag simpatiche per un tema comunque, come dicevi giustamente tu all'inizio, Franco, di grandissima attualità. Ecco, adesso sentiamo la scena che vi ho appena descritto in questo secondo passo del trailer. There's something that I have to tell you. I have something I need to tell you too. You go first. I love you. It's not the answer I was hoping for. I'm pregnant. I'm pretty sure it doesn't happen that fast. It was before I met you. E allora non riveliamo del tutto il finale, non il sesso del bambino almeno. Vi riveliamo invece che Jennifer Lopez si è affrettata a sottolineare che al marito Mark Anthony non ha permesso di vedere la scena di sesso sul tavolo della cucina. Va bene, ogni attrice reagisce a modo suo. Il film uscirà a maggio, come abbiamo detto, a metà maggio negli Stati Uniti. Nel cast e nel ruolo di Stan c'è Alex O'Loughlin e la regia è di Alan Paul. E allora salutiamo Michaela Bellisario che ci ha raccontato The Backup Plan per quanto concerne le uscite negli Stati Uniti nel nostro trailer USA. Noi vi ricordiamo che, come abbiamo detto, ci sono ben 8 film che arrivano nei cinema in questo fine settimana. Vogliamo anche regalare un piccolo assaggio di I Gatti Persiani, un film che ha fatto molto discutere, di Bahman Gobadi, un film che racconta di una generazione di giovani iraniani nello sfondo della Teheran che stava abbracciando la cosiddetta rivoluzione verde, una generazione, dicevo, che non si arrende all'oscurantismo, non si arrende all'integralismo che in questo momento governa quel paese, insomma di un Iran giovane che è molto meglio dell'Iran più vecchio che lo governa, e lo fa attraverso la musica, la storia di due ragazzi che escono di prigione, ci vanno dentro e fuori proprio a causa della musica, perché loro sono musicisti rock, il rock è la musica del diavolo, e però a un certo punto cercano di fare il gran colpo, di far girare un po' la loro musica anche in quella Teheran, appunto, che è in quelle condizioni. Lo fanno attraverso un metodo che va molto per la maggiore da quelle parti, facendo stampare copie pirata del loro CD e cercando di infilarlo un po' dappertutto, con quello che è una vera meta, cioè quella di arrivare a un certo punto a espatriare, ad andare in Europa e vivere il loro sogno rock. Abbiamo una clip che possiamo farvi ascoltare, quella in cui i due giovani cercano un posto, uno studio che possa aiutarli a stampare appunto queste centinaia di migliaia di copie. Lo trovano con una certa facilità, sentiamo. Questo è il miglior studio di diffusione di film al mondo, capito? Altro che la Paramount o la 20th Century Fox, Warner Bros, o che ne so, ma chi sono, questo studio è il numero uno, number one. Capito? Allora cos'è il vostro CD? Adesso torno da voi, scusate le spalle, carini, mangiate qualcosina e sono da voi, avanti. Questo è il CD completo di quello che facciamo, è almeno di 2 anni fa la registrazione. Bene. Avevamo inciso i nostri pezzi migliori. Qualcuno l'ha sentito? Dove è circolato? No, nessuno, da nessuna parte. Non avete l'autorizzazione. Ma questo non ce l'avrà mai. Se per voi va bene, ve lo distribuisco io sul mercato nero in 100.000 copie. Così vi fate notare anche dai capoccioni del Ministero dell'Informazione. Se volete, lo faccio. Magari, no. Volete? Sarebbe bene. Allora partiamo, cominciamo. Sentiamo un po'. Sentiamo. E questo appunto era il momento in cui cercano di trovare appunto uno sbocco alla loro produzione musicale. I Gatti Persiani, un film girato clandestinamente nel giro di 15 giorni a Teheran lo scorso anno, e poi è stato molto difficile anche per attori e regista rientrare in patria, il regista è stato arrestato, insomma vicissitudini piuttosto pesanti. Questo è appunto I Gatti Persiani, una delle proposte di questo fine settimana, vi abbiamo voluto far sentire un assaggio perché lo meritava, film molto molto divertente. Siamo arrivati al rush finale della Rosa Purpura, che come sempre è dedicato al cinema da rivisitare, vedere o rivedere in casa propria, davanti a un bel impianto, un theater magari, o semplicemente a una televisione, magari anche in chiaro e magari gratuita, cosa che di questi tempi non è poco. Lo facciamo come sempre con il primo consiglio di quest'ultima parte del programma, ovvero quello di Film TV, della settimanale Film TV, che ci segnala di settimana in settimana una fra le proposte cinematografiche di qualità, in chiaro e gratuite appunto, della settimana successiva. Sentiamo cosa ha preso, cosa ha spigolato per noi dal palinsesto televisivo Andrea Fornasiero di Film TV. Ciao Franco e un saluto anche agli ascoltatori di Radio 24. Questa settimana da Film TV segnaliamo il film che va in onda in prima serata, mercoledì 21 aprile, su Rai 4, è Memento di Christopher Nolan. Nolan era l'opera seconda dopo il precedente Following, che era un film indipendente girato in bianco e nero, veramente con pochi soldi, ma già dalla costruzione particolarmente artificiosa. Memento però è ancora più originale e fa esplodere il suo talento, che poi l'ha portato a diventare comunque un regista ormai noto anche al grande pubblico, soprattutto per i due film di Batman, direi, ma anche per Prestige. Comunque in Memento l'idea di fondo è che un uomo abbia un problema e non riesca a ritenere le informazioni della memoria breve, quindi ogni 15 minuti dimentica le ultime cose che gli sono successe, e per cercare di ricostruire i fatti e tenersi al passo con gli eventi usa fotografie, tatuaggi, appunti e via dicendo. Il protagonista incorre in questo difetto in seguito al trauma della morte della moglie, per la quale lui cerca di avere giustizia, ma la sua indagine è chiaramente impossibile a causa della sua incapacità di ricordare, e ovviamente in un'ambientazione così noir chi ha intorno a lui cercherà di raggirarlo e sfruttare il suo difetto. Quindi al di là della perfezione del gioco strutturale, che salta indietro in diversi flashback a incastro, Memento rimane impresso anche per un finale davvero nero, in cui il protagonista in qualche modo si ritrova a dover scegliere tra l'oblio, pur sapendo che continuerà a causare dolore, e l'orrore di una verità insostenibile. Per questa settimana è tutto, un saluto da Film TV, ci risentiamo la prossima settimana. Grazie Andrea Fornasiero di Film TV. Ricordiamo ancora Memento di Chris Nolan, film veramente straordinario, con questi post-it gialli che vengono lasciati un po' ovunque per ricordarsi cosa si è fatto nell'ultimo quarto d'ora. Mercoledì 21 aprile, Rai 4, quindi digitale terrestre, ma in chiaro, non a pagamento, alle 21.05. Ultima traccia del film misterioso di questa settimana. Pretty Boy Floyd, sei in arresto. Mi chiamo Charles. Charles Floyd. Tu chi sei? Mervyn Purvis. Bureau of Investigation. E qui abbiamo dei nomi, e il nome di Mervyn Purvis chiaramente vi deve mettere sulla buona strada per indovinare di che film si tratta e provare a vincere il DVD di questo film. La Rosa Purpurea @radio24.it. Se avete indovinato, scriveteci come sempre anche il vostro indirizzo di posta per ricevere eventualmente con più celerità questo film. Invece noi andiamo indietro di 7 giorni. Settimana scorsa avevamo fatto un Blu-ray game straordinario, perché c'erano un sacco di copie in palio. Ascoltiamo una delle clip che avevamo seminato. Avete aspettato un'ora, ma ora finalmente lo potete vedere. È un modello scintillante, intimo, malinconico, e com'era? È sincero, ma è un modello soprattutto adatto per saltare questo giudizio. Modello Giuditta, beh, qui ovviamente l'avevate capito tutti, Roberto Benigni, Il piccolo diavolo, straordinario film che ritorna nello splendore del Blu-ray, e fra poco sentiremo con quale effetto dal nostro Claudio Poffi. Io voglio ricordare i 5 vincitori che si portano a casa una copia del film: Giulio Ravazzolo di Legnaro, provincia di Padova, Achille Ballabeni di Bologna, Alessandro Zimei di Ponsacco, provincia di Pisa, Giuseppe Giampietro di Arenzano, Genova, e Luca Martelli di Imola, provincia di Bologna, tutti con il Blu-ray del piccolo diavolo di Roberto Benigni nei prossimi giorni. Claudio Poffi, ci sei? Eccoci qua, ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. E allora com'è questo Blu-ray di questo straordinario e divertentissimo film di Benigni? Beh, cominciamo subito col dire che il Blu-ray offre, grazie a Cecchigori, per la prima volta il film nella versione integrale, quindi questo è già un punto a vantaggio di questo prodotto assolutamente unico. la qualità delle immagini è sicuramente superiore rispetto alla versione DVD. C'è qualche minimo difetto fisico della pellicola, non è sicuramente recentissima, ci sono alcuni momenti in cui affiora una certa grana. C'è l'audio DTS ad alta risoluzione in italiano, c'è questo nuovo mix multicanale interessante e riportata per fortuna una seconda traccia sempre ad alta risoluzione che riporta l'audio originale monofonico. Ci sono pochi extra ma molto interessanti, un making of di 45 minuti e un'intervista di John Lurie che entrambi risalgono all'epoca, ma presente una nuova intervista freschissima a Roberto Benigni realizzata per l'occasione di questo Blu-ray. E allora Roberto Benigni, il piccolo diavolo, noi invece vogliamo, e alla Rosa Purpurea non poteva mancare, dare anche il nostro pezzettino di omaggio a un grande dello spettacolo che se n'è andato, su Radio 24 se n'è parlato, se ne parla da giorni ovviamente, di Raimondo Vianello, però Raimondo Vianello è stato anche un pezzettino della storia del cinema italiano, della commedia italiana, le sue partecipazioni, alcuni film a fianco del grande Tognazzi. Noi abbiamo preso un piccolo frammento di un divertentissimo dialogo che è quasi un monologo di un film che si intitola Caccia al marito e ne approfittiamo per salutare anche noi Raimondo Vianello e farci dire da Claudio Pofi dove possiamo trovare Raimondo Vianello in DVD. Sentiamo. Signorina Hilde, buonasera, sono il ragioniere Andrea. Sì, passavo di qui e allora ho pensato bene di farle un salutino. Volevo anche dirle che sono innamorato di lei. Volevo dirle che sono innamorato di lei. Ma no, no, non si disturbi, signorina. Ha tanta gente. Chissà come si diverte lei con l'alta società. Cosa dice? Lei è innamorata di me. Oh, lei è innamorata di me. Ma che mi dice? Ma via, cosa mi dice? Ha ancora quei due biglietti del cinema? Ma sì, c'è. Sono 26 al momento i DVD che contengono alcune delle oltre 90 opere a cui Raimondo Vianello ha partecipato in qualità di attore oppure collaborò al soggetto piuttosto che alla sceneggiatura. Ci sono naturalmente film in cui lo possiamo vedere solo in ruoli minori di comparsa come Cinque poveri in automobile di Mario Mattoli piuttosto che FIFA e Arena con Totò, ma come abbiamo sentito oltre a Caccio al marito di Mario Girolami del 60 sono altri titoli interessanti tra cui ad esempio I tromboni di Fra Diavolo, ma per la sceneggiatura collaborò ad esempio anche ad Armiamoci e partite con Frank Ingrassia del 71, anche questo disponibile in DVD. Non manca qualche opera autoriale, il film a episodi L'amore in città del 53 con grandi registi tra cui Antonioni e Fellini, lui partecipò a Gli italiani si voltano, questo episodio realizzato dalla Tuada. Anche all'estero è possibile recuperare qualche DVD che contiene la presenza di Vianello come attore. Allora, il tempo a nostra disposizione è finito, grazie a Claudio Pofi anche per questo excursus sull'opera di Raimondo Vianello al cinema in DVD e in Blu-ray. Si chiude qui La Rosa Purpurea di questa settimana, l'appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24 per parlare di cinema. Un saluto da Franco D'Assisti.